Ho letto le notizie di cronaca veramente terribili su questo pestaggio brutale dei due bambini, di questa donna. Devo dire che, come al solito, la notizia viene data con i commenti dei vicini, per cui è tutta una brava famiglia, eccetera, eccetera, lui era meraviglioso. Questi giudizi così un po' a prescindere potrebbero essere risparmiati, perché vanno tutti nel senso di far pensare che sia un atto disperato, improvviso, un raptus, eccetera. Mentre ho visto, pare sul sito dell'ANSA o di Repubblica, che invece un vicino è intervenuto dicendo che aveva già notato un pestaggio del bambino più grande da parte del patrigno, appunto, per strada, che era stato preso a calci molto pesanti. Forse se l'intervento del vicino fosse stato anche nel senso di fare una segnalazione alla polizia, la cosa sarebbe emersa prima che sfociasse in un omicidio vero e proprio del bambino. Di sicuro le violenze erano state ripetute e anche gravi precedentemente. Molto spesso è coinvolta anche la madre, che magari non denuncia per paura. E poi un'altra cosa che mi viene da dire è che dobbiamo sempre stare molto attenti, perché quando un uomo è violento, quindi in alcune situazioni, poi quest'uomo aveva precedenti anche penali eccetera, la presenza di figliastri aumenta il rischio secondo tutte le ricerche indipendenti, e quindi andavano adottate delle misure protettive precedentemente. Non so se quella donna per esempio avesse già chiesto aiuto a qualcuno o se la polizia fosse già intervenuta in precedenza per violenze che accadevano a casa, violenze che non possono essere chiamate liti in famiglia, come ho visto scrivere, ma che sono dei veri e propri pestaggi. Penso che quest'uomo ha ucciso a mani nude questo bambino, immagino quanta violenza deve aver agito su questi bambini. E al di là della violenza fisica diretta contro di loro, in ogni caso la violenza assistita dai bambini nei confronti della madre provoca dei danni nella personalità, nell'evoluzione del bambino veramente gravissimi, e spesso di questo non si tiene in conto, lasciando che sia la madre a assumersi la responsabilità di far cessare la violenza, quando invece è un dovere di tutti, a cominciare dal cittadino che ha visto il pestaggio in strada di questo bambino. Tutti quanti abbiamo il dovere di intervenire in quel caso, separando quest'uomo da questo bambino che veniva preso a calci. Io non so se è stato fatto, ecco, però è un segnale importante e forte che tutti dovremmo dare. E allora io ti chiederei per prima cosa proprio se puoi farci un vademecum molto veloce di come le persone che assistono alla violenza possono aiutare, diciamo. Allora, è molto facile che chi assiste sia impaurito dalla violenza, e in questo caso conviene allora chiamare direttamente e tempestivamente le forze dell'ordine. Ma se non è così e la persona se lo sente, è importante fermare quello che sta accadendo dicendo: lei sta commettendo un'azione violenta e grave su una persona che non si può difendere in questo momento, sta facendo qualcosa di sbagliato, la smetta subito, oppure cercare di separare vittima e autore di violenza. Ecco, è importante prendere posizione a favore della donna se viene aggredita una donna in strada, a maggior ragione di un bambino che ha molte più difficoltà in una situazione del genere. Anche quando vediamo i bambini picchiati dai genitori ai giardini, a me è capitato tante volte, dire che così non va bene, che non si possono picchiare i bambini, prendere posizione di fronte all'adulto che compie un gesto veramente inappropriato, violento, negativo per lo sviluppo psicofisico del bambino, diventa una cosa fondamentale da fare, in modo che sia chiaro a tutti che la violenza non è permessa, non va bene, e non ritirare dicendo: beh, non voglio intromettermi, sono affari loro, chissà che cosa ha fatto il bambino, chissà che cosa avrà fatto quella donna, così via. Un'ultima cosa che ti volevo chiedere è invece legata proprio a livello giuridico legale delle tutele che ci sono adesso in Italia, quindi volevo chiederti se in Italia viene tutelata appunto la figura del minore rispetto alla violenza, ovviamente. Guarda, sulla carta il nostro codice civile penale i bambini vengono tutelati assolutamente, tutti reati, se vengono compiuti contro un minore, hanno delle aggravanti. Non sono un avvocato, adesso non posso entrare nel merito più in dettaglio, ecco, però il punto è che le leggi sono spesso disapplicate. Per esempio, si sottostimano moltissimo le conseguenze della violenza assistita. Quando non si aiuta una donna che ha già chiesto aiuto a uscire da questa situazione, dobbiamo sapere che non stiamo tutelando neanche i bambini. Alcune norme nel nostro codice penale sono state aggravate recentemente dal cosiddetto decreto femminicidio, quello che è uscito nel 2013, che sanziona con pene più pesanti, per esempio, il maltrattamento in gravidanza e anche la violenza assistita. Chi procura, insomma, lesioni, chi fa violenza in presenza dei bambini. Però su come queste norme poi vengono applicate nei tribunali è tutta un'altra questione, perché questo dipende dalla formazione dei magistrati e di tutto, insomma, il sistema legale che interviene a tutela dei minori. Ci sono molte incognite. E poi, insomma, c'è un nuovo disegno di legge in ballo proprio in questo senso, che è il DDL Pillon. Quando ci sarà, io spero che non venga mai discusso e tantomeno approvato. Se per caso dovesse essere legge, sarà un vero disastro, perché i minori saranno ancora meno tutelati, perché non ci sarà più modo di regolamentare i rapporti del padre violento contro i bambini, per cui questa esposizione, che già adesso a fatica si cerca di limitare sostenendo il bambino e la madre nel loro diritto di protezione, di chiedere aiuto, di protezione, entrasse in vigore il disegno di legge Pillon, sarebbe completamente vanificato. Torneremo indietro a prima del 1975, quando è entrato in vigore il nuovo diritto di famiglia. Arriveremo a legittimare il fatto che il padre, il capofamiglia, ha il diritto di correggere la moglie e i figli, correggere nel senso di picchiare con la frusta.